in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa che da questa settimana non possiamo più definire solo europea, perché abbiamo deciso di allargare un po' lo sguardo anche fuori dall'Europa, quindi continueremo a monitorare la stampa straniera e citeremo articoli che parlano di tutto, Europa compresa, perché comunque ormai siamo affezionati a questa formula e tra l'altro sappiamo quante cose succederanno nel 2017 che potrebbero definire il futuro a medio-lungo termine dell'Unione Europea. Ma quindi inizio da Monocle questa settimana. Monocle è un magazine, questo numero che ho davanti agli occhi è quello di marzo ed è uno speciale per il 10° anniversario di questa rivista che è stata fondata da Tyler Brûlé, che prima aveva fondato Wallpaper, è un po' il re Mida dei magazine in lingua anglosassone, quello che crea, quello che tocca, rende un successo. Questo magazine è poi diventato come siamo noi, dalla carta è passato anche alla radio, anche una radio, Radio Monocle. La copertina di questa settimana ha un cane stilizzato, il titolo è A New Breed of Global Security, cioè si parla della sicurezza globale intesa sia dal punto di vista dei servizi segreti dei vari paesi, sia dalle misure che ognuno di noi può o deve prendere per in questa era di insicurezza globale. Monocle è in realtà una rivista che si occupa di tutto, quindi c'è anche uno speciale sul Portogallo, anche un'intervista al CEO di Lufthansa Carsten Spohr e moltissime altre cose. Invece un'altra rivista bellissima, anche questa inglese, si chiama 1843 ed è il magazine mensile dell'Economist, che è il più diffuso settimanale in lingua inglese e che, come sapete, non si occupa solo di economia nonostante il nome. Questo magazine ha in copertina, in realtà non è un mensile, è un bimestrale, quindi nell'edizione di febbraio-marzo, una donna molto famosa che è Amal Clooney, sposa di George Clooney, ma soprattutto nella sua vita precedente e anche in quella attuale, un famoso avvocato dei diritti umani, e quindi il titolo Two Women, One Cause, e perché due donne, non solo lei, perché accanto a lei c'è Nadia Murad, che è una rifugiata yazida, quella dei rifugiati yazidi è una delle tante cause che Amal Clooney difende nelle corti internazionali. Un pochino più leggero la copertina di Wall Street Journal Dot, che è il mensile del Wall Street Journal, appunto. Questo numero che ho sotto gli occhi è dedicato in particolare alla moda maschile. Sapete che gennaio è stato un po' il momento in cui soprattutto tra Milano e Firenze si sono viste le collezioni per l'autunno-inverno 17-18. La copertina però è dedicata a Bruno Mars, il titolo è Making Magic, cioè fare qualche cosa di magico, realizzare una magia, il Golden Touch di Bruno Mars, che tra l'altro indossa lui è un po' fashion victim, potremmo dire così, quindi in copertina è chiaramente tutto griffato. All'interno un bellissimo articolo su Alessandro Sartori, che da circa un anno è direttore creativo di Ermenegildo Zegna. Tra l'altro proprio tre giorni fa a Milano è stato presentato anche il nuovo atelier, dove verranno fatti abiti su misura, proprio su misura nel senso che si può scegliere persino il tessuto, proprio si può andare con una pezza di tessuto e farselo ricreare. E questa è appunto un lungo servizio dedicato a Alessandro Sartori, e il titolo è Zegna Revs Up, che vuol dire si rilancia. Naturalmente questo non potrebbe succedere senza la sintonia, si spiega anche nell'articolo, con il CEO Gildo Zegna, ed è una formula che abbiamo visto avere grande successo nel caso di Gucci, dove il CEO Marco Bizzarri e il direttore creativo Alessandro Michele hanno orchestrato in poco meno di 2 anni un rilancio eccezionale. Passiamo a un altro argomento che sta molto caro, credo, alla maggior parte dei giornalisti, sicuramente a noi del gruppo Sole 24 Ore, ed è quello della credibilità delle notizie, di questo fenomeno delle fake news, cioè quest'idea che vengono diffuse soprattutto grazie a internet delle notizie palesemente false o comunque non verificate, ma l'eco è da subito talmente forte che poi per smontare o per dimostrare la falsità delle notizie ci vuole molto più tempo, e nel frattempo hanno causato sicuramente molti danni. E allora la copertina, La fine dei fatti, di Internazionale, che traduce un lungo reportage del Guardian, c'è una mano con con una matita in mano e all'estremità di questa matita c'è Pinocchio, e la matita in realtà è come se fosse il lungo naso del bugiardissimo Pinocchio. L'articolo appunto lo trovate poi su Internazionale, si intitola La fine dei fatti, è di William Davis, firmato da William Davis, e parte anche dalle statistiche, perché un altro termine che siamo ormai abituati a sentire è Big Data, cioè bisognerebbe, questa è l'era in cui non solo si possono raccogliere i dati naturalmente tramite i computer con grande facilità, soprattutto si possono analizzare, e però poi questa nuova forma, se vogliamo, di statistica non è, è paradossalmente meno considerata di quanto fosse la statistica tradizionale un tempo. E da qui appunto scrive William Davis, inizia così il suo articolo: in teoria le statistiche dovrebbero servire a risolvere i contrasti, dovrebbero dare a tutti, indipendentemente dalle posizioni politiche, un punto di riferimento certo da cui partire. Eppure negli ultimi anni la divergenza di vedute sull'attendibilità delle statistiche ha contribuito alla divisione che sta attraversando le democrazie liberali occidentali. Poco prima delle ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, uno studio ha rivelato che il 68% dei sostenitori di Trump non si fidava dei dati economici pubblicati dal governo, e secondo una ricerca dell'Università di Cambridge e di YouGov sulle teorie del complotto, il 55% della popolazione del Regno Unito crede che il governo stia nascondendo la verità sul numero degli immigrati presenti nel paese. Da Internazionale vi segnalo poi, visto che tutto sommato sono passati pochi giorni, ma sarebbe bello parlarne più spesso che soltanto l'8 marzo, quindi un articolo apparso su El País, un editoriale intitolato Per le donne la strada è lunga. E questo editoriale inizia così: il fatto che la metà femminile dell'umanità continui a essere discriminata anche nei paesi più sviluppati non è solo un'ingiustizia inaccettabile, ma un ostacolo al progresso sociale ed economico. Le donne incontrano ancora gravi ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro e all'istruzione, e nonostante i passi avanti degli ultimi anni, 2/3 degli analfabeti sono donne e la quota di popolazione attiva femminile è inferiore a quella maschile in tutto il mondo. Cambiamo argomento, andiamo sulla Süddeutsche Zeitung, che ha anticipato questo fatto che potrebbe essere molto importante, potrebbe avere delle conseguenze sulla capacità delle aziende tedesche di operare in Cina, dove sono state tra le prime ad andare. Credo che una cosa che notino per esempio tutti quelli che vanno in Cina per la prima volta è la quantità di autovetture di marca tedesca. E scrive allora la Süddeutsche Zeitung: diverse fondazioni tedesche operanti in Cina sono diventate illegali per la difficoltà di ottemperare alla nuova legge entrata in vigore all'inizio dell'anno, che prevede che le fondazioni straniere si registrino con un partner cinese. Questo partner però è difficile da trovare in tempi brevi, e quindi almeno transitoriamente queste aziende sono appunto illegali. Vedremo se il governo cinese introdurrà delle proroghe, chiuderà un occhio, oppure se questo stato di illegalità permarrà. Invece Le Monde si occupa di Marine Le Pen. Sapete che sulla Francia, dicevamo prima, il 2017, un anno in cui succederanno molte cose importanti per l'Unione Europea. Una è sicuramente l'elezione del nuovo presidente francese. Marine Le Pen è, fino a poche settimane fa, era anche favorita per la vittoria al primo turno e poi data per sconfitta comunque al secondo. In ogni caso vedremo, i sondaggi sono molto liquidi, ma nel frattempo Le Monde ha spiegato che Marine Le Pen, leader del Front National, che ha in un certo senso ereditato dal padre Jean-Marie, è nel mirino del fisco. Sarebbe infatti oggetto di due contenziosi per aver largamente sottostimato il patrimonio che possiede in comune con suo padre, appunto Jean-Marie. Il valore dei beni potrebbe essere rivalutato del 60% e costringere Le Pen a pagare l'imposta sul patrimonio. E poi ci sono appunto i dettagli di questa indagine del fisco. Una notizia che trovo interessante, perché è qualcosa che insomma anche in Italia sounds familiar, direbbero gli inglesi, cioè che ha un suono familiare in Italia, e sono un po' le cicliche scintille tra Stato e Chiesa. Infatti il Podemos, il movimento spagnolo, ha chiesto che venga abolita la trasmissione domenicale della messa, e questo ha fatto molto arrabbiare il presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, spagnola, il cardinale arcivescovo Ricardo Blázquez, che ha reagito dicendo che in questo modo si è una mossa politica poco seria e si alimenta, addirittura è arrivato a dire, si incita l'odio per la religione cattolica. Su Francesco poi ha avuto naturalmente parole di elogio, e forse indirettamente spera che appunto Francesco intervenga in questo dibattito. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.